Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, le borse oggi tutte deboli, meno 1,40% Milano per la precisione, meno 1,50% Francoforte, meno 1,15% Parigi, meno 1,15% anche Londra, l'America perde l'1,1%. Ma al di là delle borse in senso lato, oggi i temi riguardano, da un lato, e ce ne occuperemo subito, la nuova posizione tedesca, nuova per modo di dire, cioè, sapevamo da sempre che la Germania non vedesse di buon occhio l'iniziativa di Mario Draghi di permettere alle banche di avere maggiore liquidità con i due strumenti, uno di giugno, soldi che le banche possono ottenere dalla Banca Centrale Europea a tassi agevolati a patto che li prestino alle imprese e ai cittadini ma non per i mutui, e poi l'iniziativa di settembre, le banche potranno conferire gli EBS di buona qualità e quindi i crediti che vantano nei confronti di imprese li potranno in qualche modo incassare subito attraverso conferendo questi crediti alla Banca Centrale Europea. Ebbene, oggi il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il Falco, ha detto: non sono particolarmente contento dell'acquisto dei titoli cartolarizzati da parte della Banca Centrale Europea, non mi aspetto problemi sullo stress test delle banche tedesche. Se emergessero buchi potremmo ricorrere al fondo Sofin, sono contrario all'utilizzo di risorse delle ISM, che è il meccanismo europeo di stabilità, per promuovere la crescita nell'area euro. Le risorse del fondo non sono state pensate per predisporre misure creative, ma al fine di stabilizzare la divisa comune europea e per la costruzione della fiducia nell'area euro. Ora, con tutto il rispetto per Schäuble, l'ho detto parlando al Bundestag, mi sembra che la fiducia nell'area euro, come sanno bene anche i tedeschi, visto che il partito anti-euro che sta a destra della Merkel ha toccato, secondo i sondaggi, il 10%, mi sembra che, diciamo, tutto l'approccio tedesco alla crisi abbia portato a una sfiducia in aumento nei confronti dell'euro, e non solo nei paesi in difficoltà, Italia, Francia, Spagna, Grecia, ma anche in Germania stessa, dove appunto la destra anti-euro raggiunge il 10%. E poi definire misure creative, l'utilizzo delle risorse per la crescita, bisogna capire perché creative mi sembra un'accezione negativa. Cosa si intende per creativo? Cioè, se ci fosse un piano di investimenti europei sarebbe una cosa creativa in senso negativo? A me non sembra. Se vi fosse la possibilità di calcolare alcuni investimenti infrastrutturali fuori dal deficit sarebbe creativo. Se si chiede alla Germania di abbassare un po' le tasse, visti i conti che ha, visto che i rendimenti dei titoli di Stato sono negativi, visto che non ha più deficit, che l'inflazione è bassissima anche lì e che la Germania ha degli ottimi dati economici, anche se in rallentamento. Se si chiede alla Germania di abbassare un po' le tasse in modo da rilanciare i consumi tedeschi e di fare qualche investimento infrastrutturale, visto che ne ha bisogno pure lei, è creatività quella o è buon senso che appartiene alla scuola economica che dice che quando i consumi sono fermi o in calo e hai la deflazione forse ti conviene anche far ripartire gli investimenti, se no di soli tagli e tasse vai a morire? Per quanto ci vogliono anche i tagli, soprattutto nelle inefficienze della nostra pubblica amministrazione, ma dico, non mi sembra così creativa la cosa. Però, e questo è un fronte, alle 18 parla, come vi ricordava il nostro GR24, Renzi all'ONU, ma sui temi soprattutto di politica estera. Oggi ha già parlato di riforma del mercato del lavoro e anche della proposta che è arrivata ieri da Susanna Camusso, che dice sostanzialmente: siamo disposti a ragionare di una sospensione dell'articolo 18 a determinate condizioni per i primi 2-3 anni di un contratto a tutele crescenti, a patto che poi il contratto a tutele crescenti preveda poi, quando tu sei al massimo delle tutele, l'articolo 18, e preveda quindi poi le stesse garanzie che vi sono adesso. È una posizione, lo dico a tutti, che si avvicina moltissimo a quella della minoranza del PD e sulla quale oggi anche Bersani ha detto, se ho ben letto, a questo punto Renzi ha tutti gli elementi per trovare una sintesi sul Jobs Act. È anche abbastanza agevole, basta volerlo. Se capisco bene, la posizione della Camusso rafforza anche la posizione della minoranza del PD e dire: se tu vuoi fare un accordo sul Jobs Act e sospende, con maggiore flessibilità nel lavoro, sospendendo l'articolo 18 con, diciamo, la non opposizione dei sindacati per un periodo di tempo determinato, tu hai la possibilità in questo momento. Ne ragioneremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Continua la discesa dell'euro, poi è ritornato sopra quota 1,27, ma era sceso oggi anche sotto quota 1,27, 1,26,9, ossia i livelli più bassi da due anni a questa parte. E il presidente della BCE Mario Draghi ha detto che il forte apprezzamento, cioè la forza dell'euro, l'euro forte in questi mesi passati, oserei dire anche anni, ha esacerbato, quindi ha aumentato l'effetto della caduta dell'inflazione nei mesi passati. L'alta disoccupazione sta pesando sull'inflazione, che è un problema. La non inflazione è un problema, è il problema che ha la Banca Centrale Europea in questo momento. Dalle stime della Banca Centrale Europea è stata sottovalutata la capacità produttiva inutilizzata. Siamo pronti a ulteriori misure non standard. Il consiglio della BCE è unanime contro un'idea di una bassa inflazione troppo prolungata. Draghi continua a dire bassa inflazione per non dire deflazione. Da un punto di vista tecnico forse ha ragione, nel senso che alcuni paesi hanno già registrato la deflazione, ma non tutti. Sicuramente c'è la bassa inflazione. Devo dire che forse questa risposta che ha dato a Vilnius il consiglio era unanime. Indirettamente è un modo per rispondere anche alle critiche che sono arrivate dalla Germania. L'Italia, allora l'Italia, ma sul fronte anche internazionale, perché oggi il Premier Matteo Renzi in un'intervista al Wall Street Journal ha definito una priorità la riforma del mercato del lavoro. Non c'è un problema, ha detto, non è un problema se i sindacati sono contro di me per questo. Serve coraggio adesso, ha escluso categoricamente la possibilità di nuove tasse in Italia e che si debba andare a elezioni, e poi ha ribadito: senza riforme in Italia non possiamo andare in Europa a chiedere un cambiamento di passo. Sulla riforma del mercato del lavoro ha detto poi Renzi: non serve un compromesso ma il coraggio, rispetto alle idee dei sindacati, ma serve un nuovo modello di mercato. I respect all ideas and I respect also the ideas of unions. Rispetto tutte le idee e rispetto anche le idee dei sindacati. Compromesso non è una brutta parola. Possiamo raggiungere un compromesso se necessario, ma in questo caso il compromesso non è la strada da percorrere. Dobbiamo invece assolutamente investire in un nuovo mercato del lavoro. Abbiamo una legge molto forte per proteggere i lavoratori italiani, ma negli ultimi 6 anni è raddoppiato il numero di disoccupati. Il tasso di disoccupazione è al 12,6% e tra i giovani è al 43%. 43% of youth unemployment. Dramatic numbers. Sono numeri drammatici. Quindi questo non è il momento del compromesso, è il momento di avere coraggio. Ho deciso di investire nella sola strategia possibile, ossia investire in una rivoluzione radicale del mio paese. Ho avuto il 41% alle ultime elezioni e userò tutto il consenso popolare per cambiare l'Italia. Ho cominciato con una rivoluzione radicale del mercato del lavoro, della legge costituzionale, una rivoluzione della pubblica amministrazione. Il cambiamento è l'investimento nel futuro. Sono assolutamente convinto di poter usare il 41% di voti per cambiare il paese. E se non sarò capace di farlo, allora non sarò in grado di continuare la mia vita politica. I'm not able to continue with the political life. Ancora sul tema della riforma del mercato del lavoro, è intervenuto anche il ministro del lavoro Giuliano Poletti, che ha risposto sul tema del Jobs Act dell'articolo 18. Non possiamo fare pasticci all'italiana, non ci si può fermare davanti a dei tabù. Ma io credo che oggi noi dobbiamo fare un ragionamento molto chiaro. Noi abbiamo bisogno di certezza, noi abbiamo bisogno di robe semplici e chiare. Non possiamo fare pasticci all'italiana, perché quando discutiamo nel merito delle cose, poi per metterci d'accordo pasticciamo, dei pasticci non ne possono essere fatti, non ci si può fermare davanti a dei tabù, noi abbiamo bisogno di dare fiducia e dare chiarezza perché ci siano investimenti, quindi queste sono le linee di fondo. Vogliamo andare avanti nei tempi che ci siamo dati, il Senato ha cominciato ieri la discussione e ha superato le pregiudiziali di costituzionalità, mi pare che ci siano le condizioni per affrontare questa discussione e farla nella maniera giusta. 700 emendamenti, ce ne sono tanti che sono, come posso dire, figli di una volontà di esprimere un'opposizione, ce ne sono tanti del Movimento 5 Stelle, tanto del Movimento di SEL, quindi è dentro la, diciamo così, attività parlamentare. Io credo che questi siano elementi che sono in qualche misura nella norma adesso, anche se proprio non fisiologici, perché gli emendamenti dovrebbero essere tutti finalizzati ad un miglioramento sostanziale delle norme, però mi pare che siamo dentro ciò che capita spesso nella nostra vita parlamentare. E torneremo a parlare dei temi di politica economica, ripeto, nella seconda ora del programma. Oggi ci sono dichiarazioni anche del presidente di Confindustria Squinzi sul lavoro e sul nuovo equilibrio necessario e sull'Italia che è chiamata a cercare vie innovative e nuove regole. Due notizie ancora in breve. Il ministro Guidi, Federica Guidi, a margine del Consiglio europeo, è ministro alle attività produttive, ha detto, al sviluppo economico si chiama adesso, scusate, ha detto: stiamo lavorando lacrimente per un ulteriore taglio dell'IRAP, abbiamo sempre detto che non ci saremmo fermati, noi andiamo avanti. E in merito alle vicende italiane, per quello che riguarda l'Ilva di Taranto, ha confermato che ci sono alcune manifestazioni di interesse non solo ArcelorMittal ma almeno altre quattro, e quella di ArcelorMittal, come ci confermò il commissario straordinario Piero Gnudi da Cernobbio, è sicuramente quella che è nello stadio più avanzato. Il ministro Madia, ministro della pubblica amministrazione, ha detto che il decreto attuativo del disegno di legge IRPEF sulle auto blu è chiuso ed è prontissimo. Praticamente ridurrà a 5 le auto blu per ogni ministero. Poi ha aggiunto, sorridendo, ora tutti a piedi alle riunioni. Sì, vediamo il decreto, però. Ancora commercio con l'estero, commercio in generale, scusatemi, tutti negativi purtroppo i dati di luglio. Le vendite a dettaglio hanno segnato una lieve contrazione, meno 0,1, ma rispetto a giugno. Il problema è che rispetto a luglio dell'anno prima, meno 1,5%, per cui cala sul mese e cala sull'anno prima, ed è l'indicatore dei consumi. Per quanto grezzo, le vendite a dettaglio sono l'indicatore dei consumi ufficiale dell'Istat. E anche il mercato immobiliare torna a calare dopo un risultato positivo nei primi tre mesi dell'anno, dovuto anche agli effetti del nuovo regime fiscale. Il mercato immobiliare ha segnato nel secondo trimestre un calo del 3,6%. Stiamo parlando delle compravendite, non dei prezzi. Unica eccezione sono le compravendite di abitazioni nelle città capoluogo, nelle città grandi, che hanno fatto più 1,8% come numero di compravendite, non come prezzo e valore al metro quadro. Vabbè, abbiamo anche altre notizie, alcune anche positive sui vitalizi, la regione, però io vorrei andare subito al primo tema, ossia questo nuovo round nello scontro felpato, a modo, educato, ma scontro tra Schäuble e governo Merkel, parte del governo Merkel, anche il presidente della Bundesbank, Weidmann, e Mario Draghi e la sua banca centrale europea. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, dicevamo già dell'euro a quota 1,26, delle dichiarazioni di Draghi oggi e soprattutto delle dichiarazioni del ministro alle finanze tedesco, il Falco Schäuble. Non sono contento dell'acquisto di ABS, che sarebbero gli asset backed securities, sono titoli cartolarizzati che vengono costruiti impacchettando mutui e prestiti. Non so, una banca per esempio eroga mutui per 100 milioni di euro, invece che tenersi nel bilancio come uscite, li impacchetta e quindi, se li ha nel bilancio, deve predisporre tutti gli accantonamenti, li impacchetta, li fa comprare da una società ad hoc, società veicolo, che per finanziare l'acquisto emette obbligazioni suddivise in varie tranche a seconda della rischiosità. Allora, i quelli più affidabili, quindi quelli che esprimono crediti di massima affidabilità, si chiamano senior, quelli a metà strada si chiamano mezzanine e quelli dove l'affidabilità è più bassa si chiamano equity. Gli interessi su obbligazioni vengono poi pagati grazie ai flussi di denaro che arrivano con la rata dei mutui e dei prestiti. Allora, la BCE ha specificato che acquisterà solo i titoli senior, in alcuni casi mezzanine, ma se garantiti da garanzia pubblica e se strutturati in modo trasparente. Questo che cosa otterrà come effetto? Permetterà alle banche di avere altra liquidità, nel senso che se tu hai 100 milioni di mutui cartolarizzati, li puoi andare a dare alla BCE e liberi queste risorse, e va ad aggiungersi all'iniziativa presa a giugno di prestare alle banche europee dell'area euro fino a 800 miliardi di euro a tassi stragevolati, a patto che vengano solo ed esclusivamente investiti per le imprese, per le famiglie, ma non per i mutui. Intanto da New York è arrivato di nuovo un apprezzamento di Matteo Renzi per l'iniziativa, per le mosse, anche quelle recenti, di Mario Draghi. I think the decision of Mario Draghi are a good decision. Obviously, in this moment, European Central Bank is not a federal reserve. Credo che le decisioni di Mario Draghi siano buone decisioni. Ovviamente in questo momento la Banca Centrale Europea non è la Federal Reserve, che ha molti più poteri. Ma le decisioni del presidente Draghi di aumentare gli stimoli all'economia sono buone decisioni. Per ciò che riguarda il futuro, penso che la cosa più importante sia realizzare riforme strutturali in tutti i paesi. Questo è l'impegno. Now the situation is in the hands of the government, not in the European Central Bank. Ora la situazione è nelle mani dei governi, non della BCE. Draghi ha fatto cose molto importanti. Adesso la responsabilità tocca ai governi. Circa il quantitative easing, penso sia una buona decisione, ma verificheremo i risultati solo dopo il primo mese, valutando l'atteggiamento delle banche nei confronti delle piccole e medie imprese. Ora è impossibile dare un giudizio prima di vedere i primi risultati concreti. For the moment it's impossible to give a judgment until the first concrete results. Allora, professor Angelo Baglioni, economista, insegna alla Cattolica di Milano, commentatore anche per La Voce, che spesso è entrato sui temi che riguardano i rapporti, insomma, come la Germania vede l'Europa. Non vorrei dire come l'Europa vede la Germania, ma anche il rapporto tra Francoforte, inteso come BCE, e Berlino, appunto, inteso come Parlamento tedesco. Buonasera. Buonasera. Dunque, vediamo se la capisco bene la situazione. Noi abbiamo da un lato la BCE che cerca in tutti i modi di dare liquidità alle banche, non convinte, perché nessuno può, lo diciamo spesso con una battuta, obbligare a bere il cavallo se non vuole bere. Però ha messo in campo tutti i mezzi, anche se oggi ha aggiunto, attenzione, se la bassa inflazione dovesse mantenersi troppo a lungo, siamo pronti a ulteriori misure non standard. Dall'altro lato abbiamo il governo tedesco, che all'inizio non è che si sia fatto molto sentire. Adesso io non so se la forza della destra anti-euro data al 10% abbia messo paura alla CDU di Angela Merkel. Però, insomma, si è risvegliato ormai a un paio di settimane di distanza. Oggi Schäuble è stato molto duro sul non mi piacciono, non mi convincono, non sono contento. Nei giorni passati era intervenuto anche Widmann, attenzione, la BCE rischia di uscire dal suo compito, non è questo il suo compito. Allora, io l'ho definito un braccio di ferro felpato, ma in realtà anche la sua sensazione è che, al di là dei modi e delle maniere, il braccio di ferro sia di quelli pesanti sotto. Ma sicuramente è, come dire, un crescendo, nel senso che man mano che Draghi spinge, diciamo, verso una politica monetaria sempre meno convenzionale e che si avvicina sempre di più al cosiddetto quantitative easing attraverso diverse misure, cioè lo stampaggio di moneta, come dicevo. Man mano che si va in questa direzione, ovviamente i sospetti e gli ostacoli che vengono posti, diciamo, da parte tedesca, almeno parte dell'establishment tedesco, crescono. I loro timori sono naturalmente che queste misure si traducano in qualche maniera in una maggiore assunzione di rischi da parte della Banca Centrale Europea e che questi rischi un domani dovessero materializzarsi, pongano dei costi al contribuente tedesco. E soprattutto penso che la loro preoccupazione sia che prima o poi questa linea Draghi porti all'acquisto da parte della BCE di titoli del debito pubblico, cosa che loro naturalmente vedono come il fumo negli occhi per tante ragioni, cioè perché ovviamente metterebbe in qualche maniera a rischio ancora una volta il contribuente tedesco nella loro visione e perché poi naturalmente porrebbe, diciamo, un disincentivo ai governi un po' birichini come quello italiano a tenere sotto controllo i conti pubblici, insomma questa è la loro... Ecco, ma lei che idea si è fatta? C'è più un elemento politico, scusatemi, cioè loro, se passa nell'opinione pubblica tedesca l'immagine che i soldi del contribuente tedesco vengono utilizzati per salvare gli italiani spreconi, i francesi con le corporazioni, aumenta il voto della destra anti-euro, oppure è un motivo veramente economico? Ma diciamo che dal punto di vista economico molte delle argomentazioni che vengono portate da Schäuble, Weidmann e via dicendo, dagli alti esponenti tedeschi che portano questa linea, dal punto di vista economico sono poco consistenti. Per esempio, per fare un esempio preciso, l'ultima cosa che hanno detto è che questi acquisti di asset-backed securities aumenterebbero i rischi che la Banca Centrale Europea si va a prendere. Questo non è vero, non è esatto, perché di fatto, come anche Draghi ha detto recentemente, questi tipi di titoli già la Banca Centrale Europea li accetta come collaterale, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria e quindi sono titoli che in qualche maniera già la Banca Centrale Europea accetta, è attrezzata per valutarne i rischi. E poi c'è da dire, come si diceva anche in precedenza, che la BCE acquisterebbe soltanto la parte senior, per l'appunto, sì, quella meno rischiosa. Di maggiore, cioè, qualità, diciamo. Sì, la parte senior è quella, diciamo, che viene prima nella catena nei rimborsi e quindi che in caso eventualmente di insolvenza il detentore della parte senior è l'ultimo che subisce perdite. Le perdite vengono prima addossate a chi ha acquistato la parte junior, poi la parte cosiddetta mezzanina e poi per ultimi a subire le perdite sono i creditori senior. Quindi chiaramente è assai difficile che anche in un caso di insolvenza venga intaccata la parte senior e quindi sono titoli assai poco rischiosi in fin della fiera. Sì, e questo sarebbe a dire, forse un po' il suo commento, che c'è anche un bel po' di pretestuosità nelle dichiarazioni della Bundesbank e della Germania, cioè se la banca centrale ti fa notare che va a comprare solo i crediti di maggiore qualità, le cartolarizzazioni di maggiore qualità, che già li accetta come collaterale, come garanzia, un po' come quando noi andiamo in banca per avere un prestito diamo qualcosa in garanzia, e già li accetta, non è che puoi scoprire all'improvviso che sono titoli pericolosi, al che si arriva a dire, a mio avviso, che forse pesa più la variabile politica. Ora, vedo molti messaggi al 349-238-6666 di gente che dice attenzione, i tedeschi dovrebbero capire che i loro dati macroeconomici stanno peggiorando, che però nessuno ha fatto questo ragionamento quando loro sforarono nel 2003 il tetto del deficit del 3%, la Germania, ricorderete, in quegli anni si fermò, fu Schröder con delle riforme molto molto forti che gli costarono poi la rielezione, fu Schröder a cambiare verso al paese, devo dire che la Germania fu il primo paese a sforare il tetto del 3%, non si beccò le sanzioni, neanche la Francia, ma altri si spingono a dire, beh, se noi avessimo fatto lo stesso ragionamento quando la Germania chiese tempo per la riunificazione, una riunificazione che chiaramente fece saltare ogni parametro, non l'avresti potuto fare con i criteri di Maastricht, allora la Germania sarebbe ancora separata. Lo so, però non è che io posso entrare nella testa del contribuente tedesco che quando c'è da usare l'euro, che è più basso rispetto al marco, è pro euro, quando c'è da considerarsi all'interno di una famiglia unica con l'euro, invece vede i paesi del sud solo come spendaccioni. Detto ciò, se la variabile è politica, professor Baglioni, che cosa dobbiamo attenderci nei prossimi mesi? Perché insomma, i numeri sulle proiezioni sulla destra, diciamo, alternativa per la Germania anti-euro, continuano a crescere. Sì, c'è da dire che finora, diciamo, la cancelliera Merkel è stata sempre una garanzia in questo senso. Ricordiamoci che la Merkel ha favorito intanto la nomina di Draghi a presidente della BCE e poi 2 anni fa ha fornito l'appoggio politico alla famosa svolta di Draghi quando fece il discorso di Londra, che poi fu, come dire, l'anticamera del programma OMT che fu lanciato nell'estate di 2 anni fa. Quello del con qualunque mezzo, anche mezzi non convenzionali, sì. Quello che fece capire agli speculatori che non conveniva scommettere sulla fine dell'euro, sì, perché andavi, sì, a scontrarti, sì, contro, a schiantarti contro la BCE, prego. Esattamente, che poi introdusse il programma OMT, che è un programma comunque di acquisto di titoli pubblici da parte della BCE, seppure non è mai stato effettivamente impiegato, però comunque è un programma con il quale la BCE si dice pronta a intervenire sul mercato dei titoli pubblici. Quindi finora la Merkel ha sempre appoggiato Draghi anche contro la Bundesbank, bisogna vedere se avrà la forza, appunto, politica di continuare su questa linea. Naturalmente questo è il grosso punto di domanda, ed è chiaro che per il momento, cioè per quanto riguarda le operazioni in corso che verranno introdotte nel breve termine, già probabilmente, anzi sicuramente questo mese, come l'acquisto di asset-backed securities e di cover bonds, oppure le altre, le TLTRO che sono già partite, queste cose ormai possiamo darle come acquisite. Diciamo che il livello dello scontro si alzerà sicuramente molto quando eventualmente si dovesse passare all'acquisto di titoli pubblici, quindi a mettere in pratica il programma OMT o addirittura porre in pratica un altro programma comunque di acquisto di titoli pubblici. Allora il livello dello scontro sicuramente si alzerà e bisognerà vedere se la Merkel sarà disposta e riuscirà a continuare a appoggiare Draghi anche contro le opposizioni interne. Grazie al professor Angelo Baglioni, appunto, che insegna economia alla Cattolica di Milano. Intanto la borsa ha chiuso, meno 1,35% Milano, meno 1,30% anche Parigi, meno 1,60% Francoforte, meno 1,20% Londra, meno 1,1% in questo momento l'America, euro a quota 1,2730 dopo essere sceso anche 1,2690. Peggiori titoli: Buzzi Unice meno 4,50, Moncler meno 4,20, Banco Popolare meno 3,80 come World Duty Free, e Hughes meno 3,20 come Enel Green Power. Positiva Fiat più 1,70, Finmeccanica più 1%. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Life and he could give. 17:44 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berigioni. Veniamo adesso alla borsa. Dicevo, oggi tutte deboli le borse e Milano non fa eccezione. Non perde più di Francoforte, appunto meno 1,60, ed è in linea con Parigi e Londra. Tra i titoli, oggi vi dovrete accontentare di me. Per quello che riguarda i peggiori in assoluto, dicevamo Buzzi Unice meno 4,50, Moncler meno 4,20, ma anche gli altri ho già elencati. Vorrei riprendere da CNH, che perde il 2,90, Tozzi il 2,80 come la Popolare Emilia Romagna, il 2,70 lo perde A2A, il 2,60 il calo di Pirelli, il 2,5 quello di Prismia nel Monte dei Paschi, il 2,30 quello di Ferragamo, ma anche di UbiBanca, il 2% lo cede Unicredit. E poi Luxottica meno 1,90 come Intesa San Paolo, Atlantia meno 1,70 come Autogrill, 1,60 lo perde Snam, ma anche Campari. Chi va bene? Facciamo prima dire chi va bene oggi. Fiat più 1,70, Finmeccanica più 1, Pop Milano più 0,40, Telecom Italia più 0,11, anche se Telecom, la vera notizia del giorno dopo le indiscrezioni che vi sarebbe un interessamento, diciamo una cordata che avrebbe al suo centro Soltru Io, l'ex numero uno di Telestra e Orange, che potrebbe essere al lavoro per, anche con fondi sauditi, ma sono tutte indiscrezioni, per lanciare un'offerta su Telecom Italia, una cordata internazionale. Finmeccanica invece si è avvantaggiata delle indiscrezioni tipo sull'ipotesi di un coinvolgimento di Bombardier per le attività di trasporti che il gruppo italiano intende cedere. Su Fiat, se vogliamo guardare le notizie uscite, oggi c'è solo una raccomandazione d'acquisto a parte di JP Morgan, ma era arrivata a guadagnare oltre il 2%, il 2,30 Fiat a un certo momento. Segni meno per tutte le altre banche, come dicevamo, oggi debolezza di tutto il mercato per quello che riguarda, anche come conseguenza delle parole del governatore della Banca d'Inghilterra, che ha detto attenzione, si avvicina il momento di alzare i tassi di interesse in Gran Bretagna. Volete sapere dell'offerta Telecom Italia? No, allora, sono tutte indiscrezioni. Lui si chiama Solomon Dennis, detto Sol Truglio, ex CEO di Telestra. La Telestra è il colosso delle telecomunicazioni australiane. Vorrebbe fare un'offerta su Telecom e avrebbe preparato una cordata con i fondi del Qatar e di Abu Dhabi. L'offerta, stando alle indiscrezioni, sarebbe di 7 miliardi e mezzo di euro. Ovviamente il titolo subito ha preso un'impennata oggi. È arrivato a guadagnare anche il 3,70%, il 3,40-3,50%, poi ha ritracciato, come si dice in gergo, nel senso che era arrivato a 94 centesimi di euro, ha chiuso 91 più 0,11%, si sono raffreddati gli entusiasmi. Però al di là del fatto se l'offerta sia o meno pronta, 7 miliardi e mezzo no, insomma, è chiaro quello che si diceva come approfondimento anche nelle settimane scorse. Telecom, dopo così, il fallimento, il nulla di fatto nell'operazione Francia-Spagna, ossia nel vedere se far entrare Vivendi nel capitale abbandonando Telefonica, l'oggetto era il Brasile anche in questo caso, si sono accordati Vivendi con Telefonica e Telecom è rimasta, a mio avviso, poi alcuni non condividono, è rimasta nell'angolo col cerino in mano, comunque meglio così, dicono alcuni vertici di Telecom. Detto ciò, Telecom da sola è troppo piccola per fare operazioni, diciamo, importanti, ma è troppo grande, ossia troppo importante per non essere oggetto di attenzioni. E quindi questo è un po' quello che emerge anche da questa vicenda, cioè che c'è qualcuno che prima o poi si chiederà, ma forse a questi prezzi conviene lanciare un'offerta su Telecom? Migliori e peggiori in assoluto oggi: Gala più 9,60, Meteorius Capital più 8,30, con Digital Magix più 7,50, Sacom meno 8,40, Tewind meno 6,23, Class Editori meno 6%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso il traffico e poi andiamo sul vivo dei temi di politica interna. Abbiamo affrontato il braccio di ferro tra BCE e Germania, adesso le prossime minuti saranno tutti dedicati invece alla situazione di politica economica, ma italiana. We'll be right back. 17:51 minuti. Allora, iniziamo la pagina italiana, che è una lunga pagina. Fra pochi minuti parlerà anche Renzi all'ONU, ma non di temi di economia. Ieri avevo promesso alcuni appuntamenti che non voglio perdere, per esempio, il vitalizio di Franz Pal. Allora, sui vitalizi lo sapete, non c'è, siamo duri di comprendonio, non capiamo e finché non capiremo continueremo. Perché lo dico? Perché da un lato c'è la Regione Lombardia, e va dato atto alla Regione Lombardia, che sta cercando di modificare le regole sui vitalizi degli ex consiglieri regionali, perché ha cancellato il diritto al vitalizio già 3 anni fa per i consiglieri in carica e quelli futuri. Ora ha chiesto un sacrificio, vedi che si può fare, vedi che non è incostituzionale, per ora e fino al 2018, causa crisi economica, agli ex consiglieri regionali, per i quali ogni anno la sola Lombardia versa 7 milioni e 400 mila euro. No, lo dico perché questo paese, le regioni di questo paese versano oltre 100 milioni di euro, mi sembra, vado a memoria, adesso arriveremo col dato definitivo, ogni anno di vitalizi, e forse si può chiedere, non dico di levarli, va bene, il diritto costituzionale, ma di fare uno sforzo, una solidarietà, un sacrificio. Già a mio avviso era sbagliato, 170 sono i milioni che ogni anno le regioni italiane complessivamente versano agli ex consiglieri regionali come vitalizio di un lavoro che non hai fatto, perché non è un lavoro, hai un'indennità, hai quant'altro, ma è un servizio che tu rendi, è diverso, se permettete, ok? Comunque, e ovviamente i consiglieri regionali della Regione Lombardia sono già pronti a presentare ricorsi, la decisione è sbagliata. Infatti è diventato legge il taglio medio del 10% degli assegni, con innalzamento da 60 a 66 anni dell'età per poter riscuotere il vitalizio. In Lazio è ancora 55 anni. Ci sono vari consiglieri che stanno facendo ricorsi, praticamente c'è anche un'associazione. Magari lo cerchiamo, lo dico in regia, Luigi Corbani nei prossimi giorni. Che è il suo presidente, ha detto, che riunisce tutti gli ex consiglieri. Non vorremmo che, non siamo contrari a tagliare, ma non vorremmo che quello che andiamo oggi a tagliare venisse verificato dai ricorsi. Insomma, dai, se non siete contrari, non fate neanche una dichiarazione. Ha detto Luigi Corbani di essere sicuro di poter vincere al 99,9% di fronte ai giudici, invocando il rispetto di un'indennità differita nel tempo e non di una pensione. Ed è in buona compagnia Corbani, e così cito anche il caso di ieri, perché c'è questo mitico presidente degli ex consiglieri regionali trentini su tirolesi, Franz Pal, che ha detto, non ci penso proprio a ritornare i vitalizi. C'è un trucco, in realtà non questi, ha detto, quello era un acconto, un diritto acquisito, e mi sembra che a questo punto di vista io chiedo a Franz Pal, ma perché non va a spiegare lo stesso concetto in Germania, visto che è alto tesino e quindi ha una vicinanza anche culturale, visto che ci accusano di essere i soliti italiani. Comunque parliamo di questo, ma soprattutto del Jobs Act dopo il GR24. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso dei temi della settimana abbastanza delicata del Premier, non tanto perché adesso parlerà non più alle 18, forse è slittata alle 19, non tanto per i suoi impegni americani, quanto perché nel frattempo, mentre era in America, sul Jobs Act è successo un po' di tutto in Italia. Però ci sono tante altre notizie che vorrei leggere su questo strano paese in cui ci sono le associazioni di ex consiglieri regionali perché non gli vengono toccati i vitalizi. Giustamente qualcuno fa notare che probabilmente, anzi, è incostituzionale toccare un diritto acquisito, però magari non sarebbe così incostituzionale tassarlo con una tassazione straordinaria per qualche anno, almeno per 2-3 anni. Buona parte del vitalizio va nelle casse comuni, nelle casse dei cittadini. probabilmente è una strada percorribile. Dicono strano paese, perché mentre stiamo con le associazioni anche in Alto Adige degli ex consiglieri regionali, ormai è un diritto acquisito. Ma che diritto acquisito? Vabbè, è un diritto usurpato, dicono alcuni ascoltatori. Comunque faccio notare che la spending review in una città come Piacenza passa anche attraverso il taglio della merendina ai bambini degli asili, così ci spiega il sindaco del PD Paolo Dosi e l'assessore all'istruzione Giulia Piroli. Hanno deciso il taglio per risparmiare 40.000 euro l'anno nel sistema di mense, che attualmente costa all'amministrazione 4.900.000 euro. Non ci sarà più la merenda per i bambini delle scuole di infanzia, a pranzo è vietato chiedere il bis. Va bene, così li tiriamo su bene, pronti a quello che ci aspetta. Sì, vabbè, poi il sindaco ha spiegato: distribuiremo più frutta durante la mattinata. Ma insomma, allora, se tu lo fai per motivi dietetici, ti seguiamo tutti. Abbiamo anche un programma come Cuore Denari che se ne occupa di che cibo dare ai bambini nella scuola dell'obbligo e non solo. Ma se lo fai per un risparmio di 40.000 euro, ma per favore, ma veramente non si riusciva a Piacenza a trovare in altro modo 40.000 euro? Che poi 40.000 euro su 4.900.000 di mense. Vabbè, poi domani ne ho altre di cose da raccontare. Vorrei passare adesso invece a alcune dichiarazioni prima di arrivare alla nota politica, come spesso facciamo il giovedì, e mi riferisco da un lato al presidente Confindustria, che è tornato sul tema del Jobs Act, ma non tanto sull'articolo 18, è tornato sulla necessità di welfare efficaci e anche di una riforma del mercato del lavoro. Su questo ha detto: servono sistemi efficaci ed equi. La crisi ci ha mostrato con tutta evidenza la necessità di dare vita a sistemi di welfare efficaci, solidali ed equi, che meglio equilibrino le politiche sociali pubbliche con gli interventi dei privati e soprattutto riesca a far fronte al fabbisogno di spesa non coperta per i servizi di welfare. La domanda che viene avanzata sempre più spesso è quella di riconoscere più spazio alla società e alle iniziative che, sorte dalle sue radici, sono in grado di rispondere alle necessità pubbliche in molti campi, dalla cultura alla sanità, dall'economia all'assistenza. Inoltre, il nascere di nuovi e diversi bisogni favorisce la richiesta di nuovi servizi e incoraggia l'ingresso di nuovi operatori nel mercato. Possiamo dire che ci si chiede sempre più di essere costruttori di futuro. E poi la ricerca di nuove vie innovative, nuove regole. La crisi sta continuando, stavo dicendo, è in onda, sì, con un lapsus freudiano, perché noi la trasmettiamo. La crisi affligge da troppo tempo, le reti di welfare non reggono più come prima. Occorre riflettere sulla sostenibilità dell'intervento pubblico e sulla ridefinizione del suo perimetro, sulle modalità per favorire investimenti che combinino il pubblico ed il privato, sugli interventi di prevenzione come via per ridurre i costi del sistema nel lungo periodo, aumentando il benessere complessivo. È infatti ampiamente diffusa la consapevolezza che la realtà dei sistemi di welfare occidentali non sarà più come quella strutturata prima di questa crisi economica, che ci affligge ormai da troppo tempo e che colpisce con bassa crescita l'intera Eurozona. La domanda è crescente e per certi versi incomprimibile, e difficilmente sarà soddisfatta se non con strade alternative rispetto al passato. Oh, chissà se in questo nuovo equilibrio convince anche gli ex consiglieri regionali. A parte che sulle merendine a Piacenza, in effetti, mi fate notare che se 40.000 euro di risparmio per non dare la merendina, che è l'1% di quanto spendono, ma quanto cavolo spendono a Piacenza per le mense? 4 milioni gli appalti. Ma che c'è dentro? Se la merendina non darla risparmi 40.000 euro ed è più o meno l'1%, ma il restante 99, che gli date? Caviale, foie gras ai bambini dell'asilo, non è il massimo. E poi veramente non si riesce su 4 milioni di appalti con le mense a trovare un risparmio di 40.000, o in tutto il comune di Piacenza a trovare 40.000 euro? Bisogna arrivare alla merendina per forza. No, perché se io fossi un bambino dell'asilo direi che anche la merendina era un diritto acquisito, così teniamo assieme i consiglieri regionali, il mitico, perché è tedesco quando gli fa comodo a lui, no? È italiano quando vuole, Franz Pahl, perché è un falco del Sud Tirol, Volkspartei, per cui lui è insomma per la... Allora, senta, sia un po' coerente, Pahl, se le piace essere tedesco, lo sia sempre, visto che qua ci accusano di, appunto, i tedeschi non vogliono pagare per gli sprechi degli italiani. Lei è addirittura a capo del gruppo di consiglieri regionali trentini e sudtirolesi, degli ex consiglieri, che non vuole la riduzione del vitalizio anticipata dalla regione, dice un diritto acquisito, non accetta espropri, non accetta espropri. Allora, se o si fa chiamare Franco Palo e allora ragiona come un italiano, visto che questo ci accusate, o se no si continua a far chiamare Franz Pahl, però si comporta come si comporterebbe se fosse in Germania o in Austria. Io voglio vedere se uno può fare un discorso del genere in Germania con una crisi come quella che attraversa in questo momento il nostro paese. E vale anche, dov'è che me lo son perso quell'altro, i nomi sono importanti per quello che in Lombardia fa il ruolo di Franz Pahl, e cioè rappresenta tutti gli ex consiglieri regionali. Luigi Corbani, magari facciamo una bella puntata codomani, Corbani Franz Pahl. Mi fanno notare gli ascoltatori che anche i diritti degli esodati erano, prima che gli esodassero, acquisiti, no? Per cui se andiamo sul tema dei diritti acquisiti, dell'esproprio, guardate che c'è la fila, altro che esproprio. Ma poi la vicenda di Pahl è un po' lunga da leggere, infatti oggi non abbiamo tempo, ma è pazzesca, perché pensate che l'anticipo di vitalizia era calcolato sulla base che i consiglieri regionali del Trentino Alto Adige sarebbero vissuti fino a 85 anni, 6 in più per gli uomini dell'aspettativa di vita, per cui un tasso di interesse prevedibile. Insomma, viene contestato tutto, addirittura fu scelto a suo tempo un professor Gottfried Tappeiner, che poi si è dissociato, che fissò il tasso di sconto, cioè la percentuale da sottrarre via via all'anticipo, lo 0,81%. Il risultato fu che, tolto un ottantenne e un novantenne, che preferirono continuare a ricevere vitalizia mensile, forse perché consideravano, tutti i consiglieri ed ex consiglieri hanno scelto entusiasti di incassare i soldi subito, altro che, diciamo, scaglionati in base all'età di vita. È un vitalizio, uno fa il calcolo di quanto dovresti vivere e te li dà un po' per volta. No, tutti maledetti e subito, Franz Pahl. Viva l'Italia, viva l'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti, ultima parte di Focus Economia, Guido Gentili accompagnato dalle nuove basi del programma oggi. Buonasera, editorialista del Sole 24 Ore. Stai buonasera, ballando? Buonasera. No, peccato, il nostro obiettivo ormai è fare ballare il paese, visto che i balli girano, ma girano anche il femminile dai balli. Allora, con quello che stiamo leggendo in questo periodo, quanto a diritti acquisiti non posso continuare a rispondere ai messaggi, perché hanno ragione anche quelli degli operai, i dipendenti sono diritti acquisiti, non sono solo quelli dei consiglieri regionali. Ma andiamo alla settimana politica. Susanna Camusso ieri da Vespa apre parzialmente su una possibile sospensione dell'articolo 18. Se uno mi dice periodo di prova così come è stato concepito finora non è più sufficiente, bisogna allungarlo, sono per discutere dei tempi, perché poi sento parlare sia di 3 che di 7 anni, non è la stessa cosa. Ma lei a 3 anni ci sarebbe? Io penso che dobbiamo distinguere, che se uno deve fare l'operaio, che mi dicano che ci sono bisogno di 3 anni di periodo di prova mi pare un po' complicato, potremmo discutere qual è il tempo. Capisco che ci sia una stagione, poi secondo me ci vogliono delle caratteristiche per definirlo, in cui l'articolo 18 non vale. Vale l'indennizzo? Perfetto, vale l'indennizzo. Possiamo dire per esempio che ci vorrebbero anche delle politiche attive e non solo delle politiche di indennizzo? Possiamo dire che quell'impresa che dopo un periodo decide che non risponde, però invece somministra una politica o di formazione o di ricerca di lavoro, perché così mettiamo in moto un circuito positivo che non è semplicemente fatto di dentro fuori. Allora, girano i balli e le loro compagne, però Guido Gentili, al di là dei tecnicismi, perché poi abbiamo detto più volte anche noi che mancando le deleghe, i decreti attuativi, non sappiamo se questa idea delle tutele crescenti varrà, dopo 3 anni avrai il contratto a tempo indeterminato, dopo 7 anni, se andrà a sostituire tutti i nuovi contratti in essere o solo alcuni, c'è ancora molto vuoto. Sì. E questo rende tutto più difficile, perché poi anche noi abbiamo difficoltà a parlare del Jobs Act se non sappiamo che indirizzo su cose fondamentali ha preso, che non è la stessa cosa dire uno dopo 3 anni o dopo 7 e dopo quanto la banca ti riconoscerà il mutuo, con quale tipo di contratto, quali contratti vai a prendere, ci sarà ancora il tempo indeterminato o diventano tutti a tempo indeterminato dopo 3 anni o 7 anni. Però non sfugge che politicamente questa è un'apertura della Camusso che va nella direzione della minoranza del PD. Ora, tu come la vedi il rientro di Renzi da New York? Lo vedo complicato, perché lo aspetta una sorta di resa dei conti, perché è vero, come dicevi tu, che la CGIL negli ultimi giorni ha avanzato una sorta di proposta di mediazione, e alla quale si è subito agganciata la minoranza del PD, che ha contestato all'inizio le ipotesi di Renzi. Ma è anche vero che questa delega, come dicevi, è una scatola che va riempita, ancora noi non sappiamo bene che cosa c'è dentro. Da quello che ha prospettato il Presidente del Consiglio, sembrerebbe esserci un abbandono, ad esempio sul tema su cui più ci si accapiglia da anni, un abbandono dell'articolo 18 così come abbiamo conosciuto, e quindi con il subentro della pratica dell'indennizzo, e quindi questa sarebbe una grande novità. Poi ci sarebbe da discutere su che cosa significa dal punto di vista economico, ma dal punto di vista del messaggio politico che questa una scelta del genere avrebbe, effettivamente sarebbe una grossa novità in Europa e sui mercati per quanto riguarda le scelte dell'Italia. Mi sembra che Renzi sia intenzionato questa volta a tirare dritto e sia preoccupato, ho visto anche delle dichiarazioni oggi del ministro Poletti, che non si arrivi a delle soluzioni pasticciate, al solito compromesso all'italiana, dove tutti possono poi dire di aver vinto o di aver bloccato qualche cosa. Quindi questo non è più tempo, non è più tempo, e Renzi credo questo lo abbia capito, e quindi lo aspetta una resa dei conti con i sindacati e dentro il partito. Ma secondo te l'apertura della Camusso paradossalmente mette più in difficoltà Renzi? Allora, in un paese normale o in una politica lineare, se tu avessi il principale sindacato che ti sta facendo anche opposizione, che apre sull'articolo 18, dovresti capire bene, adesso magari c'è qualche speranza in più di chiudere sulla riforma del mercato del lavoro. In un paese come il nostro questo viene letto come un appoggio della CGIL alla minoranza del PD, e quindi un mettere ulteriormente in difficoltà Renzi, perché come ha detto oggi anche molto bene Bersani, a questo punto Renzi ha tutta la possibilità di fare una sintesi tra le varie proposte, come dire, se tu segui anche quella lì non avrai nemmeno l'opposizione della CGIL. A me sembra un po' una polpetta avvelenata, ma vorrei sentire il tuo punto di vista. Ma penso che anch'io penso che sia così, perché poi si tratterà di capire come questa proposta di mediazione sarà articolata davvero nei dettagli, perché ad esempio noi siamo in una situazione per cui sono operanti i decreti politici che sono stati varati dal governo Renzi qualche mese fa, e quindi si tratta di capire se la soluzione verso la quale andiamo sia, diciamo così, sia nulla rispetto a quello che già abbiamo oggi o rappresenta un passo in avanti, perché altrimenti non si capisce il perché, diciamo, di fare un'operazione di questo genere. Quindi Renzi, credo che Renzi debba andare fino in fondo su questo terreno, e che una soluzione dove poi tutti possono dire di aver vinto è, insomma, Renzi da una parte, la minoranza del PD e la CGIL dall'altra, e questa volta alla fine svantaggia proprio Renzi, io credo, e non gli altri che possono aver detto di aver imbrigliato il Presidente del Consiglio. Quindi io credo che questa volta arriverà davvero il momento della chiarezza su questo punto, e sapremo davvero chi ha vinto e chi ha perso. Ecco, l'ultima nota riguarda l'atteggiamento che ha tenuto Renzi in questi giorni. Allora, chiaro che era prima nella Silicon Valley, le start-up, poi all'ONU. È sembrato più abbottonato del solito, forse mi sbaglierò, poche dichiarazioni, ha parlato raramente con la stampa italiana, solo ieri, per tornare sul Jobs Act, per non dire, diciamo, per non aggiungere nulla, nel senso, non che tirerà dritto. Secondo te è una prudenza dovuta al fatto che quando è all'estero, poi in questo paese, quando i premier sono all'estero, abbiamo già visto nel passato, capitano anche alcune cose, o ha capito che la partita sarà più dura del previsto e quindi bisognerà stare molto attenti ad usare anche le parole e il contenuto soprattutto di queste parole? Io credo che in prima battuta lui sia stato attento a non tornare sul vecchio sentiero di quello che lui stesso ha definito l'annuncite, e quindi evitando di tornare a promettere, prospettare svolte politiche che poi attendono ovviamente la verifica dei fatti. Quindi è stato più prudente su questo punto, e secondo me è stato più prudente proprio perché sa che il ritorno in Italia coincide con una scelta chiara sui temi del mercato del lavoro, e coincide anche con la predisposizione della legge di stabilità, perché questa deve essere varata diciamo entro la prima metà di ottobre, e con i tagli alla spesa pubblica. Quindi lo attendono, diciamo, una partita combinata che è mercato del lavoro, legge di stabilità con dentro i tagli alla spesa pubblica, che è una partita ad altissima sensibilità, non può sbagliare una mossa su questo, e quindi io credo che sia stato prudente per questo motivo. E quindi, al di là del discorso, domani i giornali giustamente avranno soprattutto l'intervento di Renzi oggi all'ONU, tra pochi minuti, non vedo ancora le agenzie, quindi probabilmente è un po' slittato. Poi al ritorno i temi saranno tutti espressamente italiani, rivolti però all'Europa. Grazie a Guido Gentili, terrorista del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.